della coscienza sono l'epicentro. Sono un mostro, ti do quello che c'ho dentro. Non elargisco sorrisi, non faccio un disco con chi si mette a confronto come se non abbassa le proprie pretese. E c'è chi vive tra gli applausi della gente. Io vivo solo se mi applaude la mente. L'orgoglio è il mio più grande fan e prima che sia morto pretenderò rispetto per chi abita sto corpo. Lo sento scalpita, sta stretto in questi abiti. Ora lo porto fuori prima che mi decapiti. E se apre gli occhi vede un nemico immaginario che gli sorride e gli mostra un nuovo scenario. Mani grondanti di sangue si è tolto la corona di spine dal capo, ma quale mostri una persona spaventata da una coscienza che lo tiene sveglio perché sporca di peccati che lo vuole spoglio. Show me the monster hiding and you take me to where it's hiding. I want to release it, please stop, don't resist it no more. Holding back now, time is running out now, something you cannot alter. I wanna see a monster. I'm not gonna fake it, I will illustrate it, cause there's a monster in me and I cannot restrain it. I've held it back too long and I don't think it'd be wrong to release this monster in me cause it's way too fucking strong. Sono nessun quel di loco mostro. Vivo nell'oscurità, un lago d'inchiostro che porta fuori quello che c'ho dentro e vi dimostra come la forza di volontà aspetta solo una risposta. Chiama l'esorcista, oggi vedrete mostri, demoni interiori da evitare a tutti i costi. Sputano veleni che inquinano animi nascosti, sfogano pensieri con alibi decomposti. Siamo fabbriche dei nostri destini, abbiamo fame, ci cibiamo dei mostri intestini che m'hanno sempre spaventato da bambino. Oggi un mostro m'apre gli occhi su un nuovo cammino. Something you cannot alter.